on huomioiden sallia, että ihmiset saattavat se kohdalloa, jos kymmen osua ja skuja kysyen eri. Että ovella harmitta on aina tee, jos on huolina laulia vietä juhitsaren antola minua juhuskolle, ne odon korretan on jarri. Lele on jäkeä respetaten, juuranen maisteranen ja vekintanen arteen. Minä katselen tai minä katteen, teidän maan, teidän kentuu, sorretan kauheen. We'll be right back.

Mitä?

an experimental place. A star-spangled boot kicked a helpless ancient face. That was just the start. This is just the end. The planted face it blistered. Diamonds were not mad. Yeah. Look in the face and now the water turns red. Strange sensation in the back of his head. Look down towards the deck. Todd's razor's going through his neck. He's so messed up, always a razor cut. Leave a bit on top, but he don't know when to stop. Swing it on, swing it on, swing it on. You're a fucking old sod. Swing it on, swing it on, swing it on. You're a fucking old sod. Look. Selling me pies. Take a bite out, it tastes pretty queer. Look inside, there's a nuzzin' and an airy. So, next up always a razor cut. Leave a bit on top, but he don't know when to stop. Swing it on, swing it on, swing it on. You're a fucking old song. Swing it on, swing it on, swing it on. You're a fucking old song. Tell her that there ain't nobody's fun. If I take a song, I give it to the mom. esto ofendida. Pero que esta vez la esperanza en el incendio historia pudre cambiar. Arriba toda la suerte al carril para partir. Rinde la revolta que daña su cata caitún. Las milicias son al carril. Caballeros, tus caballeros pagas. No mire más por las atraparas. Caballeros, tus caballeros pagas. No mire más por las atraparas. Els companys enrere quedant. El seu esprit s'enfraixerà. Igual que tot un cop, conec invitació. Autogestió. Deixa't dos pesos sota el carrer. Agafa el consell que encara té temps. Val la pena i t'ha canviat aquesta merda de societat. Treballem tots junts, treballem tots plegats. Treballem el món, estem preparats. Treballem tots junts, treballem tots plegats. Treballem el món, estem preparats. Treballem tots junts, treballem tots plegats. Canviarem el món, estem preparats.